Capitolo 25 dei figliuoli di Asaf, Eman, e Idun cantori, e sonatori di salterio, e di cetra sono distribuite a sorte 24 famiglie, e classi. Davide adunque, e i capi della moltitudine trascelsero per ministri i figliuoli di Asaf, e di Eman, e di Idun, perché cantassero le lodi di Dio al suono delle cetre, dei salteri, e dei cimbali, servendo in numero conveniente all'ufficio per cui erano destinati. Dei figliuoli di Asaf, Zacur, e Giuseppe, e Natania, e Asarela figliuoli di Asaf, sotto la direzione di Asaf, il quale cantava presso del re. I figliuoli poi di Idun, 6, Idun, Godolia, Sori, Geseia, e Asabia, e Matatia sotto la direzione del padre loro Idun, il quale al suon della cetra cantava innanzi a quelli che celebravano e laudavano il Signore. Vera anche Eman, i figliuoli di Eman furono, Bocciao, Mataniao, Oziel, Subuel, e Gerimot, Anania, Anani, Eliata, Geddelti, e Rommemtiezer, e Gisbacassa, Melloti, Otir, Maziot. Tutti questi figliuoli di Eman, veggente di Davide per far parole delle cose di Dio, lo rendevano glorioso. Dio diede ad Eman 14 figliuoli e 3 figlie. Tutti quanti erano distribuiti sotto la direzione dei padri loro, cioè di Asaf, e di Idun, e di Eman per cantare nel Tempio del Signore sui cimbali, e sui salteri, e sulle cetre, per adempiere gli uffizi della casa del Signore presso del re. E il numero di questi insieme colorò fratelli, che erano tutti dotti, e insegnavano a cantare le canzoni del Signore, fu di 288. E tutti egualmente titarono a sorte classe per classe, tanto maggiori, che minori, maestri, e discepoli. E il primo a uscire a sorte fu Giuseppe, che era figliuolo di Asaf. Il secondo uscì Godolia, egli, e i suoi figliuoli, e fratelli in numero di 12. Il terzo Zacur co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il quarto Isari co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il quinto Natania co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il sesto Bocciao co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il settimo Izeela co' suoi figliuoli, e fratelli 12. L'ottavo Gesaia co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il nono Matania co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il decimo Semeia co' suoi figliuoli, e fratelli 12. L'undecimo Azareel co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il dodicesimo Asabia co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il tredicesimo Subael co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il quattordicesimo Matatia co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il quindicesimo Gerimot co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il sedicesimo Anania co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il diciassettesimo Gesbacassa co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il diciottesimo Anani co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il diciannovesimo Melloti co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il ventesimo Eliata co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il ventunesimo Otir co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il ventesimo secondo Geddelti co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il ventesimo terzo Maziot co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Il ventesimo quarto Rommemtiezer co' suoi figliuoli, e fratelli 12. Note, e i capi della moltitudine. I principi tanto della stato civile, come dell'ecclesiastico. Vedi cap. 24. Editum. Detto anche Etan, cap. 15. Perché cantassero. Letteralmente perché profetassero questi cantori sacri celebravano le lodi del Signore cantando le sacre canzoni ispirate da Dio a suoi servi, i profeti, ed erano talora mossi dallo Spirito di Dio a comporre delle nuove. Così nei primi tempi della Chiesa veggiamo, che i cristiani nelle sacre adunanze si sentivano mossi dallo Spirito di Dio a comporre dei salmi e dei cantici spirituali, coi quali di Santa Letizia riempievano tutti i fedeli. Vedi quello che si dice. Cor. 14. Due punti cantava presso del re. Questo vuol dire o che di Asaf si serviva Davide per far cantare i suoi salmi, vedi v, e Asaf li metteva in musica, ovvero che, egli esercitava il suo ministero non in Gabaon, ma in Gerusalemme nel tabernacolo fatto dal re. Dal seguente versetto, dove si ha la frase presso del re, pare che sia preferibile il secondo senso. Due punti: tutti questi figliuoli di Eman, veggente di David, le rendevano gloriose, Dio diede c. Il senso che ho seguitato nella traduzione di questo versetto, che è oscuro, anziché no, sembrerà assai giusto, ove si considerino tutte le parti del discorso. Eman ha detto veggente di David per far parole delle cose di Dio, vale a dire cantore sacro, che era adoperato dal re, quando voleva parlare delle grandezze del Signore e delle opere grandi fatte da lui a favor del suo popolo, e tale è per lo più l'argomento dei salmi di David. Questo sacro cantore era glorioso per tutti quei figliuoli rammentati nel versetto precedente, avendogli dato il Signore fino a 14 maschi e 3 figlie. Il corno è messo sovente nei libri santi per la gloria, la celebrità, la grandezza, per questo, invece di dire che Eman aveva tutti questi figliuoli, i quali ne ricrescevano la gloria, il testo dice, che esaltatavano, levavano in alto il suo corno. Due punti e il numero di questi insieme con loro fratelli, ecco. I lieviti cantori erano divisi in 24 classi, come i sacerdoti. Ogni classe aveva 12 maestri di canto capaci di insegnare agli altri, così erano in tutto 288 maestri. In ognuna poi di questa classe era un gran numero di cantori di minore abilità, i quali imparavano e si formavano sotto la direzione dei primi. Due punti e tutti ugualmente tirarono a sorte ic. Tirarono a sorte l'ordine delle classi, e in qual delle classi ciascuno dovesse aver luogo. In ogni classe vi erano 12 maestri, compreso uno dei 24 figliuoli di Asaf, di Eman e di Ditun, il rimanente della classe erano altri cantori più o meno capaci. Due punti: il quale era figliuolo di Asaf. Qui va sottinteso egli coi suoi figliuoli e fratelli 12, come nelle seguenti estrazioni. Poi fratelli si intendono o fratelli, o parenti. Due punti: Semeia è lo stesso che Ditun tra figliuoli di Ditun, v.